programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Buongiorno, buongiorno a tutti da parte di Filippo Glorioso, ben sintonizzate sulle frequenze di CRMP Radio, la trasmissione carta e penna in studio, il sottoscritto a condurla fino alle 13:10-15 circa, e poi la differita come sempre la potete riascoltare domenica subito dopo dalle 9:30 in poi. Intanto, per chi volesse seguirci anche sul sito internet, può farlo cliccando www.crmpradio.it. Oggi una puntata eccezionale, un ospite di tutto riguardo, e annunceremo l'uscita di un nuovo film. Insomma, è un personaggio conosciutissimo anche a Cefalù, e capirete perché. E, per quanto attiene la cronaca, stamattina sui giornali primeggiava che alcuni dipendenti della Fiat messi in cassa integrazione hanno occupato l'Agenzia delle Entrate a Termini Imerese. L'allarme sociale continua a crescere in maniera esponenziale, non ci si stupisca dunque se il Movimento 5 Stelle, non si sa se poi diventerà o non diventerà un partito, ma fatto sta che Beppe Grillo ha cavalcato la tigre giusta, e quindi già in alcuni comuni si paventa la prima escalation da parte di alcuni candidati giovani professionisti che si affacciano per la prima volta alla politica. Non c'è nulla da stupirsi, anzi ben vengono nuovi volti, e se si rinnovassero tutti quanti non sarebbe niente di grave e nulla di male. Tornando a noi, insomma, giornata abbastanza calda, le temperature oscillano tra i 21 e i 25 gradi, e questo che si prevede da parte del meteo nel centro-sud, ma in particolare nella nostra regione. Prossimamente, anche per i futuri giorni, sarà all'insegna del bel tempo, tante manifestazioni che si stanno succedendo via via che si avvicina l'estate. È normale ancora in alcune discussioni per quanto attiene le politiche amministrative appena concluse a Castelbuono. Avete sentito, la scorsa settimana ha vinto Tumminello. Cefalù ha un problema di gestione vera e propria, perché in consiglio la maggioranza non è dell'attuale sindaco, quindi del sindaco che è uscito vincitore da queste elezioni amministrative, il signor Lapunzina. Speriamo, insomma, che le cose si mettano bene, perché nel complesso generale non è che stiamo andando a grandi ritmi. Ne nutre che vi tedio con queste discussioni, lo sapete tutti, i giornali, i quotidiani, i mass media ne parlano tutti i giorni, però insomma è bene che almeno a livello locale le cose comincino ad andare un pochino diversamente. C'è il patto di stabilità, molti sindaci si lamentano di questo fatto, cioè non possono sforare un certo tetto di spesa con il patto che è stato firmato dalle nazioni europee, quindi dall'Europa Unita Maastricht, e non possono essere quindi prevaricate questi paletti messi a salvaguardia della spesa pubblica. Ma lamentano, da Torino arrivare a Palermo, anche i piccoli centri lamentano il fatto che se non si sfora il patto di stabilità, difficilmente il volano dell'economia, almeno a livello locale, si possa muovere. Nulla quindi di nuovo sul fronte occidentale, dicevano alcuni cronisti degli anni 40-45, durante la seconda grande guerra mondiale, ma si spera che ancora una volta l'intelligenza italiana, il modo di fare di noi italiani, che siamo grandi risparmiatori, siamo per fortuna muniti di una buona intelligenza intuitiva, anche se volete, per riuscire a ribaltare ancora una volta una situazione di guerra, ma questa volta per fortuna non è una guerra fatta con le bombe, ma è una guerra del tutto diversa, fatta di economia. Quindi non disperiamoci, affrontiamo il quotidiano con un po' di serenità. Certo, il dottor Monti dovrebbe darci una mano. I partiti maggiori che stanno appoggiando il governo in questo momento hanno preso, soprattutto il PDL, è stata una Waterloo, è stata una sconfitta su tutti i fronti. Vedremo anche lì cosa saprà fare la politica nazionale con Alfano, che è il nuovo segretario del PDL. Intanto ci sono delle lamentele all'interno dello stesso PDL che appoggia il governo Monti, e chiederanno al medesimo chiaramente delle scelte diverse e di mettere in opera, insomma, un nuovo modo di detassare, perché sarebbe in questo momento deleterio, a detta da parte degli addetti ai lavori, quindi degli economisti, però quantomeno che ci siano degli investimenti atti a far ripartire l'economia italiana e poi quella europea. In Francia è cambiato il presidente della Repubblica, non è più Sarkozy, il nuovo si preannuncia più vicino come posizione ideologica al nostro governo. governo, perché è un uomo di centro-sinistra, è un socialista e quindi sicuramente sarà più attento alle politiche sociali. Così si parlamenta nei mass media internazionali, e ci auguriamo, insomma, che queste nuove elezioni possano portare qualcosa di buono per quanto attiene l'Europa. Invece, dall'altro versante, la Grecia, avete appena sentito dal nostro GR, non si preannuncia nulla di positivo. C'è lo spauracchio di nuove elezioni nazionali, perché nessuno dei tre ha la maggioranza in Parlamento, e quindi a questo punto, se non si mettono d'accordo l'estrema destra, il PASOK, che sarebbe il Partito Socialista di Papandreou, e poi l'altro partito, insomma, che ha portato altri voti e quindi è salito al Parlamento, ma tutte e tre insieme, se non c'è l'accordo, non si riesce a governare la Grecia. E detto questo, io prima di dare la linea alla regia, no, non diamo la linea alla regia perché c'è una telefonata in arrivo, desideravo parlarvi di un buon latte per fare una buona colazione la mattina. Parliamo di azienda zootecnica Bergi, latte fresco, formaggi, yogurt. I yogurt sono straordinari, poi potete vedere chi va nell'azienda può assistere alla mungitura, alla pastorizzazione, all'imbottigliamento del prodotto, quindi rendersi conto di cosa stiamo parlando. Non è nulla di occulto, è tutto sotto gli occhi di tutti. E gli yogurt sono bianchi oppure frutti di bosco e alla fragola. Lo trovate in via Geraci, proprio poco più avanti, l'azienda Bergi, dell'azienda agroturistica Bergi. Questa invece è la zootecnica, quindi poco più avanti sulla destra ve la trovate lì andando verso Geraci. Vediamo se allora, dopo tutta questa disamina, vi ricordo che sto ascoltando Carta e Penna in studio Filippo Glorioso. Ospite, il primo ospite in diretta che abbiamo è il nuovo sindaco, rieletto sindaco, quindi riconfermato sindaco di Isnello, che è il dottor Giuseppe Mogavoro, che saluto e ringrazio per aver accettato l'invito. Dottor Mogavoro, buongiorno. Sì, grazie a voi, buongiorno. Allora, dottor Mogavero, lei ha avuto una riconferma, ha portato 748 voti personali invece come lista 872, pari all'86,08% con 8 seggi. Sì. Il suo invece antagonista era Giuseppe Alberti, dottor Alberti, con il 66%, pari al 6,51%, lei invece la percentuale sua era del 73,84%, quindi ha stravinto le elezioni. Vuol dire che abbiamo governato bene, sindaco? Ma vuol dire questo, vuol dire che non vi è stata una lista di opposizione. La seconda lista non è una lista di opposizione, è una lista che è nata per evitare la possibilità che le elezioni venissero invalidate, perché occorreva che andasse a votare il 50% più uno dell'elettorato, e con tutti gli iscritti all'AIRE il rischio lo si poteva correre. Il candidato della seconda lista, il candidato a sindaco della seconda lista, era il mio ex vice sindaco di tanti anni addietro. Una lista che ha condiviso l'operato dell'amministrazione e che ha spiegato chiaramente in paese il perché della seconda lista. E quindi ci si aspettava un consenso largo, diffuso, ma anche una ampia partecipazione al voto. Dottor Mogavro, io penso di avere il piacere di averla conosciuta in occasione, grazie sempre a CRM che mi dà questa opportunità, a Gibilmanna durante un convegno sull'astrofisica. Sì. I radioascoltatori sanno che è Snello. Prego? Sì, ma da allora sono stati fatti parecchi passi avanti. Adesso ne parliamo. No, dico, ho avuto il piacere di conoscerla e sì. Il plebiscito con il quale lei è stato riconfermato la dice lunga sul fatto che i suoi concittadini, insomma, amano questo sindaco, vuol dire che ha seminato e poi ha raccolto, insomma, quello che aveva seminato. Ha lavorato bene. Parliamo un attimo di questo istituto astrofisico che è sorto a Disnello. Quali sono state le evoluzioni, sindaco? Il progetto è già stato finanziato nel novembre del 2009, quindi a ridosso di quell'evento convegno a cui lei si riferiva prima, tenuto a Gibilmanna. Nel novembre del 2009 è stato finanziato dal CIPE per 7,5 milioni di euro, è in fase di gara, sta per essere aggiudicata la gara per quanto attiene ai lavori edili delle infrastrutture alla impresa, sì. Penso che da qua a 15 giorni avremo già l'impresa e quindi con una previsione di inizio lavori a fine anno. Questo riguarda sia la parte, la struttura di ricerca che verrà posizionata a Monte Mufara, a Piano Battaglia, sì. E sia per quanto riguarda invece la struttura didattica divulgativa a Isnello. Ma è già definita l'opera per l'importanza che ha, un unicum in Europa per quello che va a prevedere, e quindi è un qualcosa che riguarda non soltanto Isnello come importanza, come interesse, ma l'intero comprensorio allargato, l'intera regione, ma ha una valenza anche nazionale, almeno a registrare le attenzioni che da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale, anche l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, sì. Rivolge a questa opera. Sì. Bisognerà ora trovare gli interlocutori adatti, soprattutto a livello regionale, per garantire la gestione. È ovvio. E quindi la copertura finanziaria che dà garanzia di avvio dell'attività. E qui tocchiamo dei tasti dolenti. Io prima che lei ci raggiungesse telefonicamente, sindaco, parlavo dei famosi patti di stabilità. Molti sindaci, colleghi suoi, si lamentano del fatto che con questo benedetto o maledetto patto di stabilità non si riesce a far partire l'economia, quantomeno a livello locale, con piccoli lavori, con piccole opere da ristrutturare, tipo strade, pavimentazioni e quant'altro. Qual è il suo punto di vista in merito, sindaco? Penalizza soprattutto grossi comuni che hanno problemi di bilancio. Noi fortunatamente non abbiamo di questi problemi, abbiamo chiuso sempre i bilanci in pareggio e abbiamo chiuso i consuntivi sempre con avanzo di amministrazione. Abbiamo fatto riferimento essenzialmente, per quanto riguarda le opere che sono state fatte e quelle in programma, a finanziamenti extracomune, quindi riferimento principe ai programmi finanziari della Comunità Economica Europea mediati dallo Stato e dalla Regione. Quindi non è soltanto al quella nord, la chiave, dico, non è soltanto al nord che ci sono delle eccellenze, ma anche noi nel nostro piccolo, insomma, qualche eccellenza ce l'abbiamo. voglio dire, senza nulla togliere ai colleghi del nord che operano. Il problema qual è? Il problema è un altro, il problema è un impasse amministrativo notevole per quanto riguarda la struttura di questi comuni, e che non hanno tante possibilità di progettare progetti che devono essere pagati, sì. E poi invece una regione Sicilia che attende tempi e tempi e tempi per definire un programma di finanziamento. E magari a volte ritorna indietro quello che gli è stato dato, insomma, tipo... È la regola questo, quella è la regola. Che ritorna indietro, anzi c'è lo svincolo automatico, non ritorna indietro, senta, che non li trovano più in comunità europea, capisce? Tutto evidente, voglio dire, quando le cose non vanno fatte in un certo modo, poi è chiaro che l'Unione Europea rivuole indietro quello che ha dato, ma il 30% 100% dei consuntivi presentati sono messi in discussione dalla comunità. Complimenti, complimenti. Andiamo sempre di bene in meglio. Senta, si parla spesso di comprensorio, ma Donita ormai non bisogna essere più campanilistici, maurini, pollinesi, persone di Snello, castelbonesi, ma siamo tutti di un comprensorio. Assolutamente. Lei sarebbe d'accordo, qualora ci fossero i presupposti, per fare dei consorzi intercomunali per veicolare anche un po' di turismo, cominciando da Cefalù prima? Si troverebbe d'accordo in un progetto del genere, sindaco? Ma guardi, io ritengo che bisogna valorizzare la istituzione parco, bisogna rivalorizzare, cioè riprendere le redini di questa istituzione che da vent'anni a questa parte non è che si sia abbia fatto molto. Qualcosa di molto significativo per il comprensorio, però è l'unica, è la istituzione del comprensorio, e al parco dobbiamo riferirci per quanto riguarda il ragionamento comune in termini di economia, di cultura e di cose che vanno fatte nel comprensorio. Io non sono del parere che l'intero comprensorio si esprima mediante una identità culturale, non è questo, ma c'è una identità sociale, politica ed economica che va tenuta in considerazione. Bravo, cioè, non può essere la isola a mare, ma deve rapportarsi con l'entroterra. Sono d'accordissimo. Perché, con lei. Ecco. Sono molto d'accordo con lei. Ci auguriamo che quando fate le riunioni all'interno del parco, insomma, prendiate atto di questo e ne parliate, insomma, di modo tale che. E visto... mi auguro che questo ragionamento cominci a passare, ad essere compreso nella sua importanza. No, anche perché, dottor. Perché più che consorsi di comuni o unioni di comuni che possono diventare anche altri carrozzoni. No, secondo me. Però il riferimento è alla istituzione parco. Bravo. Ritengo. No, ma ritengo un'altra cosa e poi chiudiamo, la lascio il suo lavoro perché so che stamattina lei ha una conferenza. Sì, io in corso, sì. La lascio subito con l'ultimissima, concludendo questo ragionamento, dicevo, certo, carrozzoni ne abbiamo già abbastanza e stiamo pagando di tasca nostra, voglio dire, i carrozzoni che gli altri hanno fatto senza che ne abbiamo avuto nessun vantaggio. Però se si fanno le cose con oculatezza, con attenzione, visto le circostanze economiche che sono abbastanza depressive in questo momento, e anziché sperperare soldi un comune con i vigili o con la nettezza urbana, faccio gli esempi, io non sono amministratore. Certo, i servizi, ecco. Sicuramente, ma è un altro discorso, il consorzio dei servizi. Ma si comincia da lì, potrebbe cominciare da lì. Certo, e da là bisogna cominciare, certo. Sindaco, dottor Mogavoro, io la ringrazio intanto per la sua testimonianza. Carità, mi saluti Snello, che è una cittadina ridente, graziosa e ben tenuta. Grazie a nome di Snello. No, è un paesino che adoro molto, anche dal punto di vista scenografico è un impatto all'occhio straordinario. Le auguro un buon lavoro, sindaco, a lei lo so giunta. Grazie, ci serve. E speriamo che il futuro, insomma, ci sorrida. Un'ultima cosa, la piscina, a che punto siamo, sindaco? La piscina della provincia, non abbiamo a che fare noi. Pare che abbiano ultimato i lavori e sono in fase di collaudo. Quindi la verrò a trovare con la scusa di farmi due vasche. Grazie, sindaco, buon lavoro a lei, mi saluto i suoi concittadini, grazie al dottor Mogavero, grazie a lei, grazie al dottor Mogavero, come avete visto molto spigliato, pimpante, insomma è un sindaco con la benetta innestata, pronto a combattere, le idee abbastanza chiare. Bene, io mi fermo per pochissimi minuti, il tempo di dare i consigli di acquisto da parte della regia, al ritorno parleremo con un altro personaggio di tutto riguardo, occhio alla www.crmradio.it e lì vedrete in diretta il film che tra pochi giorni uscirà sulle sale di tutta la nazione. Beh, ci sono delle cose che si possono fare durante la fase di crisi. Noi italiani siamo bravi a inventarci i lavori, i napoletani sono straordinari in questo. Pensate, più tardi parleremo con una persona che ha la responsabile dello sportello Stage, col quale parleremo di possibilità di lavoro che ci sono in tutta Italia, soprattutto da Palermo, Catania e Messina, perché oggi un punto di riferimento per i giovani che non sanno, una volta diplomati o laureati, a chi rivolgersi per una occupazione. Bene, io credo che questo sportello Stage, questo ente, è interessante perché comunque ai tempi nei quali ci siamo diplomati noi o ci siamo laureati noi, queste possibilità non c'erano. Certamente oggi non è semplice per un giovane uscito dall'università potersi trovare un'occupazione, bisogna che ci si sposti dal sud, spesso si va al nord. Questo vale per quanto attiene i laureati soprattutto in informatica, ma anche quelli in medicina. Pensate, al nord mi dicevano che molte maestranze, soprattutto i paramedici, quindi gli infermieri specializzati, sono tutti dell'est europeo. non soltanto perché costano meno, ma perché c'è penuria di personale. Allora, spesso i nostri corregionali della Sicilia, non appena specializzati o specializzandi, sono costretti a recarsi al nord. Vuoi che fai musica, vuoi fare cinema, vuoi fare teatro, insomma qualsiasi cosa tu voglia fare, purtroppo abbiamo queste carenze strutturali che non consentono alle nostre intelligenze di restare nella nostra regione, ma devono per forza maggiore di cose andare spesso anche all'estero, dove vincono le borse di studio, vedi Stati Uniti, nei college o anche in Inghilterra, dove fanno degli stage e quindi si vanno a specializzare, spesso rimangono in quegli stati e noi perdiamo un aspetto importante per la nostra regione, per la nostra nazione, prendiamo i cervelli, così chiamati i cervelli in fuga, vengono definiti a livello nazionale, vanno all'estero e lì rimangono, perché economicamente in Italia fino ad oggi almeno nessun governo ha pensato bene di distribuire capillarmente regione per regione con degli sportelli che siano in contatto diretto con l'università e con il mondo del lavoro, per fare questa sinergia e quindi avere la disponibilità da parte delle aziende di trovare subito immediatamente sul mercato delle università i migliori che potrebbero così, con un piccolo stage formativo, essere subito assunti. Questo succede negli Stati Uniti, succede in Inghilterra, succede in Germania, ahimè ancora non succede in Italia. Un'altra cosa che bisogna che si facesse in Italia è di benvengono le tasse, perché comunque le nostre nuove generazioni e i nostri futuri governanti, i nostri futuri quadri dirigenti vengono fuori dalle nuove generazioni, per cui bisognerebbe che lo Stato, che il governo si interessasse di più a stanziare più fondi per la ricerca scientifica. Sicuramente sì, siamo all'avanguardia, abbiamo degli ospedali straordinari, ne parlavamo anche con il presidente della Sarafede Cirillo l'altro giorno a proposito di Fiore all'Occhiello, però ecco, oltre alla ricerca bisognerebbe che si stanziassero dei soldi per dare possibilità a questi giovani che escono dalle università di formarsi ancora meglio con degli stage, quindi dando loro delle borse di studio senza che questi gravino poi sulle spalle dei genitori, che in un momento come questo, credetemi, non è semplice far studiare e tenere un figlio fuori dai confini della propria regione e men che meno fuori dalla propria porta. Per cui, detto questo, sono le 12:28 minuti, volevo presentarvi due aziende in maniera molto veloce, perché tra poco abbiamo un collegamento telefonico con questo personaggio straordinario per molti aspetti, poi capirete di cosa stiamo, perché parlo così, perché insomma chi lo conosce almeno in televisione o nei film sa che è uno scavestrato, cioè un giovane, un uomo maturo ma mai diventato anziano, è sempre giovanissimo nello spirito, meno male che è così, mens sana in corpore sane, per cui se il cervello funziona funziona tutto quanto, se va via il cervello, ahimè, il corpo può essere efficiente ma senza cervello non va da nessuna parte. Lui è un caso straordinario, è rimasto un eterno bambinone. Volevo presentarvi il Geranio, ristorante, pizzeria, 16 posti letto, piscina, ludoteca, campo da calcetto, mare a 20 metri. Quindi il venerdì ve ne andate al Geranio, ad Acque Dolci, adesso vi do le indicazioni. Bene, potete pernottare lì, prenotando chiaramente prima, mangiate dell'ottimo pesce, perché pensate a 20 metri dal mare, insomma è quanto dire. Il forno a legno vi garantisce delle buonissime pizze e poi il campo di calcetto, perché vuol farsi la partitina per mantenersi in forma, visto l'avvicinarsi dell'estate, lo faccio in maniera molto serena. Dunque lo trovate il Geranio, incontrato a Buffone Marina accanto il campo sportivo ad Acque Dolci. Vi do il numero di telefono qualora vorreste prenotare, 339-222-3813, oppure per capire di cosa stiamo parlando, www.geraniomare.com. Allora, l'ultimo sponsor per questa tornata, porte 2M, porte che arredano, porte fatte su misura, ma anche infissi fatti su misura, quindi anche le finestre, i vostri mobili potete fare su misura. Vi faccio un esempio delle porte in rovere massiccio, pensate, soltanto 600 euro incluso il montaggio. Allora, 2M porte che arredano, lo trovate in esposizione in via Cavour 74, stiamo parlando di Castelbuono, e produzione incontrata a San Calogero, sempre a Castelbuono. Vi raccomando la prenotazione prima di andarli a trovare, perché se no non vi danno conto, sono molto belati di lavoro, talmente sono bravi questi ragazzi. 0921 677012, telefonate e andate a visitare sia lo showroom che la produzione. Detto questo, allora vi stavo parlando di questo personaggio che ha iniziato con altri due personaggi che sono rimasti storici nel firmamento della televisione italiana, poi del cinema se vogliamo. Poi uno si è messo a fare il cantante, l'altro fa l'attore di teatro. Lui è sempre rimasto un anfitrione, un uomo di spettacolo, di avanspettacolo, insomma, goliardico, straordinario. Ha fatto un film. A lui? Ah, certo, è una grossa sorpresa, è una grossa sorpresa. Benissimo, no, mi avevano dato una comunicazione di servizio. Dicevo questo, lui è un personaggio che è rimasto fondamentalmente giovane, insomma. Seguite adesso, tra poco la regia manderà una slide, cioè sarebbe a dire un pezzo di questo film che sarà chiaramente il tormentone di quest'estate. Ma intanto io do il benvenuto e saluto calorosamente un personaggio che sicuramente è straordinario per molti aspetti. Non ho il piacere di conoscerlo personalmente, però vedendolo l'ho sempre amato, perché è il classico amico che ognuno di noi vorrebbe per divertirsi così spensieratamente, ed è signori Gerry Calà. Ciao Gerry, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti, eccomi qua. Oh, la Madonna. Allora Gerry, se sei collegato, stiamo mandando la slide del tuo film in onda su www.crmradio.it, ed è il promo, cioè la parte, un pezzettino insomma del film. Allora, intanto ben ritrovato, da molto che non ti si vedeva e da molto che non ti si sentiva. Dove sei stato tutto questo tempo? Dico la battuta di De Niro in C'era una volta l'America, sono andato a letto presto. Diciamo che ti sei preparato per uscire alla grande. Ma è vero, io lavoro come un matto, faccio un sacco di serate in giro per l'Italia con il mio show che si intitola Non sono bello piaccio, dove racconto la mia carriera attraverso 40 anni di musica bellissima, e quindi insomma, e poi ho preparato questo grande film Operazione Vacanza. Adesso ne parliamo, perché tra poco esce nelle sale cinematografiche italiane, ma prima di che esce il film esce la colonna sonora che la stiamo ascoltando in sottofondo, già la regia l'ha mandata in onda. Ti volevo chiedere questo: da dove nasce l'idea di chiamarvi, visto che tu parlavi della genesi della tua nascita artistica, I Gatti di Vicolo Miracolo? Dove è venuto fuori questo nome? Io ho avuto sempre... Ora con i gatti, vuoi partire da lì in fondo? Ci vorranno 3 ore di intervista. Allora. No, soltanto la genesi del nome, da dove parte? Come vi è venuto in mente? Perché voi tre siete stati là, tu, Poppini, anche l'altro che adesso la mi La genesi del nome, niente, viene da una canzone che avevamo scritto su questo vicolo Miracoli di Verona, che era un vicolo strano perché nello stesso vicolo risiedeva l'ufficio delle tasse e il bordello della città, e la canzone diceva che sui tetti i gatti guardavano tutto questo. Allora così, ispirandoci a questi animali osservatori liberi e indipendenti, ci siamo chiamati Gatti di Vicolo Miracoli. Allora, torniamo un attimo solo a te Gerry, poi in futuro avremo magari modo di sentire gli altri due. Ormai penso che siete rimasti sempre amici tra voi. Sì, vi incontrate. Sì, poi ha fatto anche la colonna sonora del film. Pensa a te. Collaboriamo spesso insieme, fa anche un cameo nel film, quindi siamo sempre in contatto. Perfetto. Allora, anzi lunedì Luca e Paolo, che erano dei grandi fans dei gatti, ci vogliono a Scherzi a Parte, quindi ci vedrete di nuovo tutti insieme a Scherzi a Parte. Addirittura, anche ti fai fare gli scherzi. Sei tu che di solito fai gli scherzacci, no? Perché io ti conosco come un personaggio strano. Dicevo prima ai radioascoltatori, prima che tu ci sentissimo telefonicamente per questa intervista, dicevo ai radioascoltatori che a vederti in televisione, per chi non ti conosce naturalmente, tu saresti l'amico ideale per ognuno di noi, perché sei rimasto comunque talmente giovane dentro e frizzante che poi insomma fai divertire così, cioè non sei mai invecchiato. Anagraficamente forse sì, ma dal punto di vista proprio del gioco, del divertimento, sei rimasto tale quale. Ma insomma sì, cerco di tenermi insomma giovane, anche perché in questo, voglio dire, ho facilità avendo un bambino piccolo, un bambino di 9 anni, Johnny, che mi chiede bello sudditono, indaffarato, mi porta allo stadio, mi porta al campo. Ah, è lui che porta te, non sei tu che porti lui. Esatto, quindi insomma mi fa trottare, quindi è lui il mio elisir di gioventù. Bene, allora senti, parliamo un attimo del film. Questo dunque, c'è intanto la colonna sonora che esce domani, l'11 maggio, e domani quindi sarà in tutte le radio nazionali. Naturalmente il nostro editore... Ma voi fatela ascoltare anche oggi. No, è già sotto, la stai sentendo? Ah sì, eccola. Ma tu vuoi che un tuo amico come il nostro editore non mandi in onda la tua colonna sonora? Stai certo. Scherzando. Ti saluta anche Angelo Arduino. Angelo Arduino, mio fratellone dei tempi di Palù. Insomma, quindi fatela ascoltare tante volte la canzone. Ma stai tranquillo, un hit. Stai tranquillo perché Angelo ci tartassa, se no sarà il tormentone dell'estate. Allora, Jenny, me lo garantisce la regia. Operazione vacanze. Allora. Dunque, mi è venuta l'idea di proporre al produttore Andrea Iervolino questo film, perché che ho scritto con Gino Capone e Rossella Druidi, perché vedevo che c'erano un sacco di fans in rete di quella mitica serie televisiva che continuano da 25 anni a Bravo. Fare, che è Professione Vacanza. Bravo. Ho detto, facciamo un film di nuovo in un villaggio dove io faccio il capovillaggio. E allora ci siamo liberamente ispirati a questa serie. Il titolo questa volta è Operazione Vacanze, che è un titolo molto aggressivo, fra l'altro un titolo che ha inventato mio figlio, che già insomma mostra grandi doti. E poi con un cast fantastico, come hai capito, quello che abbiamo: Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Francesco Pannofino, Maurizio Mattioli, Valeria Marini, Benedetta Valanzano e chi più ne ha più ne metta, è venuto fuori insomma una cosa molto bella. Poi con la ciliegina di una regia, di una grande Claudio Fragasso. Claudio Fragasso, grande regista di Palermo Milano sull'andata, che diciamo ha quasi debuttato nella commedia, ma devo dire alla grande, perché ha dato alla commedia qualcosa di più: l'azione, il movimento, il colore, la musica. Insomma, secondo me è venuto fuori un film molto divertente e anche molto, molto originale. Sono sicuro che... Ma visto gli attori che ci sono dentro, compreso te, presumo che le risate saranno insomma crepapelle. Perché... Esatto, e poi voglio dire, in questo periodo dove ovunque si volti c'è crisi, parlano di crisi, di recessione, di tutto. Un sano sorriso. Voglio dire, non facciamoci portare via le vacanze. No. Questo sai cos'è? Questo è un film, non è né un cine cocomero, né un cine ombrellone, questo è un cine salvagente. Lo stiamo mandando in onda, guarda, sei su internet in questo momento. Allora, il film esce nelle sale il 23 maggio. Sì. Il titolo è Operazione Vacanze, naturalmente, visto che ci avviciniamo anche all'estate, sarà sicuramente un tormentone, e come colonna sonora e come film. E mentre nelle sale cinematografiche italiane uscirà il 23 di maggio. Il 23 di maggio, esattamente. Perfetto. Senti... Quindi vi aspetto tutti al cinema, mi raccomando. Ma no, allora a questo punto tu ci inviti ad andare al cinema, sicuramente Angelo, io andremo a vederlo, perché a me le commedie mancavano da un po' di tempo. E poi, trattandosi di personaggi come voi, insomma, io vi stimo tutti quanti, gli attori che tu hai nominato. Ceccherini l'ho conosciuto personalmente quando ancora era in erba, prima che sfondasse nel mondo cinematografico. Per cui sicuramente sarà un piacere rivedervi tutti insieme per passare un'ora e mezza di serene risate, quantomeno. Visto pensiamo sempre al portafoglio, alle tasse. Mare Monti, parliamo solo di mare. Allora, perché ricordatevi che l'estate non è una stagione, è uno stato d'animo. Bravo, bravo Jerry. Portiamocela sempre dentro un po' di estate. Allora Jerry, prima di salutarci, tu ci hai fatto un invito e ci vediamo al cinema sicuramente. E io parlo a nome di Angelo, il quale sorride a bocca aperta perché ricorda alcuni aneddoti vostri, che poi fuori onda mi ha un po' erudito sulle vostre cose, e sono stati momenti straordinari. Andavamo ad attaccare i manifesti muro per muro. Quindi questa la dice lunga su chi è Jerry Calà, insomma, un ragazzone cresciuto anagraficamente ma mai cresciuto a livello interiore, è rimasto un fanciullo, insomma. E poi Angelo è anche uno che si presta quando non è arrabbiato, ma quando è tranquillo, insomma, un ragazzaccio anche lui. Ecco, io vorrei dedicare, visto che trasmettete da Cefalù, sì. Vorrei dedicare questo film vorrei dedicare questo film alla mia terra, che è la Sicilia, che è sempre nei nostri cuori. E vi dico una cosa, in realtà questo film doveva essere girato in Sicilia. E quando lo viene a girare uno qui da Roma? Però, sai, lì ci sono sempre un po' di... insomma, ci avevano promesso che ci aiutavano, che ci davano qua, che ci davano là, poi alla fine, insomma, invece... Ascolta, Jerry. Per le solite beghe così, ma io questo lo volevo dire perché io ci terrei moltissimo a venire a girare una commedia in Sicilia. Mi piacerebbe vedere proprio un film tipo i miei in Sicilia e smettere di vedere sempre film che parlano di mafia di, e quant'altro. Bravo Jerry, approvo in pieno. Il progetto era Vacanza a Cefalù. Ti faccio il progetto della Vacanza a Cefalù, la prima voce di Angelo Aldovino che è alla regia in questo momento in assenza del... Ciao Angelone, ciao. Allora, senti Jerry, mi diceva giustamente Angelo, e questo te lo posso dire, tu mi conosci molto poco, però Angelo mi conosce ormai da 5 anni e sa che potremmo fare molte cose insieme, poi fuori onda casomai 15 anni, ne possiamo fare delle cose fuori onda se ci sentiamo io tu con Angelo, ti posso dare una grossa mano da questo punto di vista, io avrei il piacere, noi avremmo il piacere insieme ad Angelo e su questo progetto mi ci butto a capofitto, di realizzare un film a Cefalù dove tu sei stato direttore artistico tra l'altro e quindi dare finalmente un'immagine di Cefalù, un'immagine delle Madonie, ma della Sicilia in generale diversa da quella che in realtà viene presentata nei mass media nazionali, quasi nel quotidiano, per cui se tu hai questa voglia magari per il prossimo anno, quando lo decidi tu, pensa che gli amici, soprattutto sì. Angelo Arduino, oh, ma sì. Oggi mi considero anch'io amico tuo se tu me lo consenti, sono a tua disposizione, siamo a tua disposizione per qualsiasi cosa ti serva per operare per fare un film nella nostra città di Cefalù. Va bene, sono io sempre, quello è resta uno dei miei grandi desideri, di venire a girare in Sicilia. Okay. E chissà che i sogni non si realizzano qualche volta. Va certo. Bene, sì, the dreams come true. Allora ci vediamo al cinema con Operazione Vacanze. Io desidero salutarti in siciliano, visto che sei sicuro anche tu, una volta tanto l'italiano lo metto da parte. Te saluto, Ger. Ciao a tutti. Ciao Pedro. Ciao, grazie a Jerry Linea. Operazione Vacanze. Tiriamo indietro le panze. Tutti in costume e coraggio. Oh, oh, oh. Puntiamo dritti al villaggio. Oh, oh, oh. Occhio agli animatori della cuccata di dottori. Mentre il turista si abbronza, loro gli sbianca la ganza. Operazione Vacanze, se diamo inizio alle danze. Salsa, merengue, latino, oh oh oh, col gioco aperitivo, oh oh oh. E quando è l'ora del tè, ti fanno il gioco caffè. E se rispondi sbagliato, sarai per sempre sfigato. Capovillaggio al comando, oh oh oh, animatori allo sbando, oh oh oh. Senti l'estate che avanza, cattura la tua vacanza. Se vieni in cerca di dips, magari trovi Brad Pitt. E se proprio ti va di culo, ci puoi trovare Marzullo. Senti l'estate che avanza e cattura la tua vacanza. Se non ci sono, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe. Allora, rieccoci in diretta. State ascoltando, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, CRMP Radio, la trasmissione in onda. Carta e penna in studio Filippo Glorioso. Seguiteci su www.crmpradio.it o anche sul sito, su Facebook. E poi da questa settimana parte una rubrica, una nicchia che interessa a tutti coloro i quali sono in cerca di lavoro. C'è un'agenzia, lo sportello Stage. Tra poco sentiremo una delle responsabili dello sportello Stage, il principale ente promotore di Stage sul territorio nazionale, e il servizio gratuito di HTL per l'incontro tra domanda ed offerta di Stage per l'orientamento e il consulting rivolto ai giovani disoccupati e inoccupati, finalizzato a un efficace inserimento nel mondo del lavoro. Il servizio in particolare ha la finalità di promuovere la diffusione di Stage, mettendo in contatto le aziende con i giovani che muovono i primi passi nel mondo del lavoro. Nel 99 lo Stage ha promosso oltre 60.000 Stage presso 10.300 aziende ed enti in tutta Italia e all'estero a favore di giovani diplomati e laureati. Allora, dovremmo avere in diretta radiofonica una delle responsabili del sportello Stage, che è la dottoressa Marina Verderheim, che io ringrazio e saluto e do il benvenuto. Buongiorno, dottoressa Marina. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, vediamo di dare le belle notizie a questi giovani, ne parlavo prima io, prima di darle la linea. Dicevo che i ragazzi, soprattutto del centro-sud Italia, non hanno punti di riferimento per avere degli sbocchi lavorativi post-laurea. Invece, cosa state facendo voi, lo sportello Stage, e lei poi in prima persona, che è una delle responsabili? Prego. Grazie, noi come sportello Stage siamo impegnati da oltre 10 anni su tutto il territorio nazionale per inserire i propri giovani nel mondo del lavoro. Riteniamo che lo stage sia proprio un ponte tra la formazione e il lavoro, indispensabile, e che sia l'unico modo, il principale strumento proprio per i giovani per entrare e conoscere il mondo del lavoro. E ci crediamo molto attraverso le aziende che ci danno la possibilità di fare delle offerte e attraverso i giovani che orientiamo, cerchiamo di orientare al meglio per presentarsi nel modo migliore alle aziende, agli enti, al mondo del lavoro. Dicevo questo anche sempre fuori onda, in attesa che lei pervenisse telefonicamente nella nostra puntata, che da oggi parte questa rubrica di informazione verso chi cerca lavoro, soprattutto i giovani neolaureati e non solo. Dicevo che il governo centrale dovrebbe spendere molto di più in attenzione verso questi giovani, se no abbiamo quei famosi cervelli che emigrano all'estero. Anche in questo penso che voi vi muoviate in un certo senso. Certamente, noi ci siamo sempre battuti per proteggere tutte le forme di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, dalla formazione allo stage, a tutte quelle che sono le modalità facili e flessibili perché i giovani possano entrare e scegliere la strada professionale più adatta a loro. In Italia, lo sappiamo, c'è uno scollamento totale tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Lo stage è quel collegamento indispensabile, ad oggi unico, che può aiutare in questo senso. Certo, ci sono anche i contratti di lavoro, l'apprendistato è uno di questi, ma non bastano, perché un giovane deve anche poter capire attraverso lo stage, appunto, qual è la strada più giusta per se stesso e per la propria vita. Noi lo diciamo sempre, il lavoro fa parte e prende la gran parte della nostra vita, per cui deve essere il lavoro che piace, oltre che un lavoro importante per il proprio benessere. E allora con lo stage si ha questa possibilità. Dottoressa Verderheim, in Sicilia in questo momento che opportunità abbiamo tra Palermo, Messina e Catania di un'offerta vostra di posti di lavoro? Sì, noi come Sport allo Stage abbiamo offerte su tutto il territorio nazionale. Abbiamo selezionato alcune offerte proprio in Sicilia, che possono essere trovate e descritte in maniera più dettagliata sul sito sportallostage.it, e sono le seguenti. La prima è una ricerca da parte di una grossa azienda su tutto il territorio nazionale, ma in particolare in Sicilia a Catania, cerca, ed è la Bricomen, cerca allievi capo settore. Si tratta di figure che devono avere un'età massima di 28 anni, in possesso di laurea di primo livello in materie umanistico o tecnico-economiche, con una predisposizione positiva nel rapporto con i clienti, nel lavoro di squadra, e che ami il commercio e il contatto con il pubblico. L'offerta è particolarmente interessante perché dopo un periodo di stage appunto formativo, dove la formazione ha una gran parte della un grande spazio all'interno dello stage, è previsto una trasformazione con un contratto a tempo indeterminato, per cui interessante anche a livello di occupazione successiva. Beh, abbiamo poi abbiamo poi un'altra offerta, in realtà sono due, su due sedi, una sede di Palermo e l'altra Messina. L'azienda è un'azienda del settore dell'abbigliamento che ha più punti vendita sul territorio regionale siciliano. Sì. Per la sede di Palermo e di Messina sta cercando due stagisti per ciascuna sede. I candidati dovranno occuparsi del rapporto con la clientela, della gestione del back office e di tutta la organizzazione del punto vendita. Il titolo di studio è diplomato. Perfetto, allora intanto prima di chiudere la trasmissione, cioè prima di salutarci, più che chiudere la trasmissione, la stanchezza gioca brutti scherzi, dottoressa Verderheim, anche lo stress della vita di oggi insomma comporta anche questo, le desideravo chiederle, qualora chi ci ha ascoltato volesse maggiori ragguagli, come può raggiungere la vostra, il vostro sportello informativo, quali sono i numeri di telefono, dove sono ubicati, insomma i punti di riferimento? Certamente. Allora, queste stesse offerte, come vi ho detto, poi ne abbiamo altre in Sicilia, di cui ne abbiamo parlato anche a Catania, presso hotel, ma comunque possono essere trovate sul sito sportellostage.it. Sì. Noi abbiamo una sede anche a Palermo per chi avesse voglia di fare un giro, che si trova in via Nunzio Morello al 18 a Palermo. Possono contattare telefonicamente i nostri uffici allo 091 62 51103. E saranno a disposizione le nostre orientatrici per rispondere, anche per fare un colloquio di orientamento nel caso volessero. Ovviamente tutti i servizi sono gratuiti. Dottoressa Verderheim, lei è stata molto esaussiva, io la ringrazio a titolo anche a nome di coloro i quali giovani cercano lavoro e non sanno dove barcamenarsi, e benvengano questi sportelli, soprattutto il vostro sportello Stage così chiamato, perché già nel 99 alcuni risultati li avete raggiunti in maniera, voglio dire, abbastanza congrui, e ci auguriamo che i ragazzi, avendo questi punti di riferimento, possano stare un pochino più sereni, perché comunque il futuro non è completamente precluso, ma ci sono ancora delle opportunità serie di lavoro che voi stessi ponete in essere. Abbiamo dato gli indirizzi, lo ripeto io se lei me lo consente, la sede di Palermo per chi volesse recarsi personalmente o semplicemente telefonare per maggiori informazioni, e dunque 091 62 51103. Dottoressa Verderheim, se vuole raggiungere qualche altra cosa lo può fare, se no dobbiamo chiudere perché i tempi sono stretti. Certo. Io prego. saluto tutti gli ascoltatori e i giovani, e vi aspettiamo nei nostri uffici, e il nostro sito è sportellostage.it, dove noi troverete molte informazioni. Noi invece ci risentiremo giovedì prossimo, stessa ora, stesso programma, quindi nel frattempo ci auguriamo che lei trovi altri posti di lavoro da offrire ai nostri giovani. Certamente, grazie a tutti. Grazie a lei per questa disquisizione. Allora, c'è questo sportello, mi raccomando, informatevi ancora meglio, noi ogni giovedì saremo qui a darvi informazioni, la dottoressa Verderheim sarà a vostra disposizione anche in diretta radiofonica, vi ho dato l'indirizzo dove potete chiedere maggiori informazioni, maggiori ragguagli su quello che sarà sulle informazioni che la dottoressa stessa vi ha nucleato poco fa, per cui insomma fate in modo di mettervi in contatto, perché il lavoro è abbastanza interessante ed importante. Grazie quindi allo sportello Stage, grazie alla dottoressa Marina Verderheim. Oggi è una giornata un po' così, perché si è stanchi, non si riposa bene la notte, insomma il cambio di stagione comporta anche questo. Allora, volevo parlarvi di Media Elettra, chiamando il numero 800 111 341, avete l'opportunità di tagliare la bolletta dell'EN, perché parliamo di fotovoltaico e Media Elettra è la prima a livello regionale come fotovoltaico, come quindi pannelli solari. Chiamate il numero verde 800 111 341, vi risponderanno gli addetti al lavoro, vi arriveranno a casa vostra i tecnici, vi illustreranno il progetto di massima su quello che voi volete realizzare come pannelli solari. Una volta partito il tutto, loro col sistema Sun Power vi controllano la vostra produzione, quindi avete un taglio da parte della bolletta dell'Enel da un lato, dall'altro dopo un po' di tempo comincerete a guadagnare anche dei soldi sull'energia erogata in maniera esponenziale rispetto a quella che avete sulla bolletta. Detto questo, quindi Media Elettra lo trovate, chi vuole andarci, in via Ugo La Malfa 61 BCD a Casteldaccia. Parliamo invece di un'altra grande azienda, vi parlo di Zaffiro. Zaffiro Aziende ne ha tre, e allora cominciamo con la prima. Zaffiro Gioielli non può mancare, perché è una gioielleria assortitissima di nozze, bomboniere, gioielli, orologi, la vetrina outlet al 50% con firme prestigiose, chi acquista più di 30 euro c'è un simpatico cadeau. L'eleganza preziosa, così è il motto di questa grande azienda. Le distanze con Bosch, Rosenthal, Villeroy, bomboniere con pignatelli, gioielli di tendenza Bros, Braille, Rebecca, ancora Re Carlo, Miluna e Chimento, gli orologi Tissot, Hamilton, Armani e Barberi. Poi la, come vi dicevo prima, la vetrina outlet, che è quella che vi viene di proprio di fronte prima di accedere al locale, con il 50% di sconto con firme anche queste prestigiose. Poi restiamo sempre nell'ambito dell'azienda, della grande azienda Zaffiro, ma andiamo a cercare la ceramica, che si chiama invece Gerbino Armao, sita in contrada Torrazza sulla SS 113, effettua vasellami di terracotta, tutto lavorato rigorosamente a mano e oggetti anche su vostra richiesta. Quindi ceramiche Gerbino Armao, sita in contrada Torrazza sulla statale 113. Poi la cooperativa agricola Vegnanebro, di dove potete apprezzare i gusti di questa azienda agroturistica, sempre facendo capo a Zaffiro, piatti tipici dei Nebrodi, suino nero dei Nebrodi e salumi di Sant'Angelo di Brolo, e dulcis in fundo c'è il Brand and Breakfast, che è veramente straordinario, a Porta Palermo, il Brand and Breakfast che vi consente di rilassarvi non appena avete fatto acquisti sia alla gioielleria che i vasellame in terra cotta. Andiamo avanti con un altro sponsor, e stiamo parlando di Medeale, di Bruno Sergio, centro assistenza caldaie, centro assistenza out LM Leblanc, sistema depurazione acque gel, acque dolci, bere e depurazione. Poi pannelli solari, acqua calda, circolazione forzata o circolazione naturale della Yankees Bosch, e il sito naturalmente www.ilclimaideale.com. telefono per i vostri preventivi 091 426 767, caldaie con biomasse di tatano. Allora, mi raccomando, Clima Ideale di Bruno Sergi lo trovate invece, vi ho dato il sito internet, lo trovate invece a Finale di Pollina. Signori, è tutto, una puntata veramente straordinaria con aspetti interessanti. Il primo, il nuovo sindaco di Snello, che ci ha enunciato il fatto che il bilancio di quel comune non è in dissesto, ma tutt'altro, sta andando bene anche per quanto attiene la fisica, il centro fisico astrofisico che è sorto qualche anno fa in quelli di Snello, che è stato ancora di più potenziato, e lo seguiremo con la massima attenzione. Poi il grande Jerry Calà, siciliano di nascita, anche se vive su al nord, vissuto qualche anno qui a Cefalù, ha fatto il direttore artistico qui, grande amico del nostro editore, lui stesso avete sentito quant'è anfitrione, quant'è spiritoso, insomma andava a attaccare anche i manifesti, un personaggio di una certa levatura, insomma si metteva in moto con il nostro buon Angelo Arduino ad attaccare i manifesti in giro, e beh, si fa di tutto, ma poi lui non è cambiato più di tanto. Andate a vedere questo film che è veramente straordinario, visto anche il cast che all'interno è contenuto. Vi ricordo che venerdì, che domani esce il, sarà su tutte le radio, quindi qui noi martelleremo la colonna sonora voluta fortemente da Jerry Calà, con la sua voce canta lui, ma la colonna sonora è stata composta dal suo grande amico ex Gatti di Vicolo Miracolo, Umberto Smaila, e poi un cast di tutta eccezione. Invece il film, andatelo a vedere, ve lo garantisco, sarà stupefacente, sarà anche questo il tormentone dell'estate, il 23 maggio in diretta su, sarà su tutte le sale, non in diretta, sarà in, su tutte le sale cinematografiche italiane il 23 maggio, quindi andate a vedere questo film il cui titolo è Operazione Vacanza, e chissà che un giorno anche a Cefalù, Jerry Calà, non posso girare Vacanze a Cefalù. Ragazzi, è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti, l'appuntamento per domenica alle 9.30 per la differita, seguiteci sempre sul nostro sito www.crm.radio.it, e chi volesse ascoltare la puntata a partire da domenica prossima, perché si è perso la diretta naturalmente o non segue la differita domenica, può farlo sul sito internet andando, andando a cercare appunto lì le puntate precedenti. Detto questo, da parte di Filippo Grosso un grazie, grazie anche alla parte tecnica, a risentirci a giovedì prossimo, ciao a tutti, buon weekend. Operazione Vacanze, tiriamo indietro le panze, tutti in costume e coraggio, oh oh oh, puntiamo dritti al villaggio, oh oh oh, occhio agli animatori della cuccata, i dottori, mentre il turista si abbronza, loro gli sbianca la ganza. Operazione Vacanze, ci diamo inizio alle danze, salsa, merengue, latino, oh oh oh, col gioco aperitivo, oh oh oh, e quando è l'ora del tè fanno il gioco caffè, e se rispondi sbagliato sarai per sempre sfigato, capovillaggio al comando, oh oh oh, animatori allo sbando, oh oh oh, senti l'estate che avanza, cattura la tua vacanza, se vieni in cerca di dips magari trovi Brad Pitt, e se proprio ti va di culo ci puoi trovare Marzullo. Ma la senti l'estate che avanza? E cattura la tua vacanza, se non ci sono più soldi venite al mare coi saldi, e se perdete il lavoro c'è sempre la carta oro, capovillaggio al comando, oh oh oh, animatori allo sbando, oh oh oh, senti l'estate che avanza, cattura la tua vacanza, tiriamo indietro le panze, diamo inizio alle danze, la spiaggia è piena di onze, operazione, operazione, operazione Vacanze, occhio agli animatori, occhio, tiriamo indietro le panze, però occhio agli animatori, che quelli, se ci avete la ganza, ve la, come dire, ve la, occhio, occhio agli animatori, per piacere. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione